abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Ah. Ah. Ah. È andato dritto dritto all'ospedale chiedendo un posto all'accettazione. Non ce la faccio più, mi sento male, mi manca solo ormai l'estrema unzione. Ma il medico di turno si è scusato guardandolo. Allora, parole, musica, Mimmo Dugno, colonna sonora scelta ovviamente da Marino Bartoletti, che io saluto. Buongiorno padre. Buongiorno a lei. Dove lo mettiamo? Ma come combiniamo tu e Dio? Cosa ci facciamo? Il vecchietto dove lo metto compie 40 anni. 76. Compie 40 anni. Mentre Valentino Rossi ne compie 38 e Buffon ai 40 c'è vicino. Ai 40 c'è vicino. Dove mettiamo il vecchietto Buffon? Dove vuole andare lui, caro Carlo? Cioè, è chiaro che è Buffon, da grande uomo, da grande leader, da grande capitano e da persona onesta, che deve decidere quello che vuole fare. Nessuno potrà dirgli cosa deve fare. È lui che dovrà capire quando è arrivato il momento in cui forse è arrivato il momento di togliere il disturbo. Io ho trovato abbastanza ingenerose le critiche dell'ultima partita su di lui. Il problema è che Buffon ci ha viziati, ci ha abituato molto bene. Buffon sarà per sempre quello della parata su Zidane nella finale mondiale del 2006, che forse è valsa più di qualsiasi altro gol si sia fatto in quel torneo. I grandi tenori, i grandi artisti capiscono un giorno prima e non un giorno dopo quando è il momento di ritirarsi. Certo. Lui però lo capirà e ce lo dirà. Io credo che sia non giusto, ma sacrosanto, dogmatico, che lui partecipi alla mondiale del 2018 in Russia, ammesso che ci qualifichiamo. Ma se poi lasciamo dire agli italiani, lasciamo dire agli italiani, non vale l'autoconvocazione, non è per diritto divino. No, però dico, anzi, lo dice lui. Sentiamo Gigi Buffon. Devo dire che le critiche vanno accettate come l'alternarsi delle stagioni, cioè sono inevitabili e va bene così, nel senso che realmente non provo né disappunto né rancore né niente sulle critiche. Vabbè, dai, detto in francese mi fanno una pippa, giusto, queste sono le cose che deve dire un capitano facendo finta di essere tranquillo a poche ore della partita non banale contro Israele. Dicevo prima che lui deve andare in mondiale in Russia, ammesso che l'Italia ci vada, ma facciamo finta che l'ipotesi non esista, e giocare anche un minuto di quel mondiale, perché il suo record delle 6 partecipazioni sarebbe un record di quel movimento calcistico. Dopodiché però dovrà avere l'onestà intellettuale, guardandosi allo specchio, di dire: c'è un ragazzo di 18 anni che vale esattamente quanto me, proprio quando in Russia, sotto la neve, io c'ero, avevo freddo e lui no, evidentemente, fece vedere al mondo quanto valeva un ragazzo di 18 anni. Sì, a proposito di mondiale, ti dicevo, a proposito di mondiali, facciamo finta che apocalittici e integrati, Tavecchio ha detto non andare al mondiale sarebbe apocalittico. Io appoggio questa parola che ha fatto un po' arrabbiare Ventura, secondo me ha torto. No, Marino, andiamo all'altro vecchietto dove lo metto. Solo dirti che io, avendo più di 60 anni, ricordo l'anno in cui ai mondiali non ci andammo. E se non fu apocalittico, fu sicuramente molto doloroso, perché fra l'altro non partecipammo al mondiale di Pelé, ecco, a parte. Sì. L'altro vecchietto dove lo mettiamo? Valentino Rossi. Io guarda, ho appena parlato con papà Graziano, che è sinceramente un pochino preoccupato, pur togli un po' di preoccupazione, che lo sono anch'io. Non è questione di questo mondiale di 20 giorni, di 30 giorni, di un mese da qui al rientro. Valentino ha 38, l'altra volta si spaccò una gamba in maniera molto più grave. Ne aveva 28, se non mi sbaglio, ma tu lo sai meglio di me. 10 anni fa, esatto. Ne parlavo proprio con Graziano pochi minuti fa. Lui dal punto di vista, come lo vogliamo chiamare, clinico-sanitario, è ottimista, perché è una fattura meno brutta di quella di 10 anni fa. Certamente Graziano, pur nella sua filosofia di vita, che gli invidio tantissimo, perché da questo punto è lo sportivo più meraviglioso che io abbia frequentato, sia dal punto dell'intelligenza che dello spirito con cui sa vivere e sa trasmettere le cose, però ovviamente un po' amareggiato per il suo bambino, di cui non può non percepire il dolore, perché quando lo sceneggiatore della nostra vita ti fa infortunare a una settimana dal Gran Premio di Misano, vuol dire che vai di casa, cioè corri a casa tua e tutti invitati alla festa e il padrone di casa non c'è, vabbè. Sai, no, egoisticamente, però... cosa posso dirti? Che al di là del dolore che provo per Valentina, a cui stai il bene che voglio, da quando l'ho sempre detto mi fece la pipì addosso sui pantaloni, e, sì, e se avessi conservato dei pantaloni come Monica Lewinsky probabilmente avrei anche dai ma a parte questo, voglio dire, le cose vanno sempre conservate. Però al di là di quello che Valentina avrebbe potuto fare in questo mondiale, non vorrei che la sua assenza potesse in qualche modo penalizzare così Tiro, per cui, come sai, fatto salvo il mio affetto per Valentino, quest'anno tifo smodatamente, se ah, sì, sì, è nato sì, dove? A poche centinaia di metri da casa no, ma al di là di dove è nato e che sia nato a pochi metri da casa tua, dove quest'anno, insomma, ha dimostrato, è stata la cosa forse più bella, più interessante di questo mondiale, cioè vederlo così è stato un piacere, ma per gli sportivi, al di là del fatto che sia italiano di casa nostra, della nostra patria. A Carlo, proposito, è il trionfo della serietà, della sì, professionalità, sì, dello spirito di sacrificio e della capacità di crescita. Sì. A proposito di... cosa accadrebbe se un italiano vincesse con una moto italiana nei tempi di Agostini, che non succede, e io c'ero purtroppo, che vuol dire che sono molto bello. Io guardo Agostini, mi guardo tutte le sere prima di andare a dormire le immagini di quando vinse per molte volte la mia corsa preferita, che si corre sull'isola di Man, e tu sai qual è. Allora, dove ci sono i gatti senza coda perché dicono che gliele abbiano tagliate le moto mentre scherzava. Ascolta, altro italiano che insomma non è stato esattamente educato, e sto provando ad usare degli eufemismi per coprire la volgarità di quanto ha detto Fognini a un giudice di campo, donna, ma questo non conta nulla. Ha chiesto scusa, è stato cacciato da New York, giustamente, ha chiesto scusa, e ci mancherebbe altro. Fognini: mi assumo le responsabilità, so che ho fatto una cavolata grande, ne ho pagato le conseguenze adesso, so che la cosa è ancora fresca, quindi dovranno decidere da farsi di questa situazione, e chi sbaglia paga. Ci mancherebbe altro, eh? Allora, cari, il problema è che Fognini temo che lo farà ancora. È questo che mi preoccupa, non è la prima volta che vediamo dei bad boys, soprattutto nei campi di tennis, perché come Pierrot abbiamo ricordi molto nitidi, e se non ricordiamo perfettamente quello che ha detto è perché lui lo diceva in inglese, mentre Fognini ha detto in chiarissimo italiano, e quel che è rivolto a una signora. Temo che non sia una questione di sessismo, ma avrebbe detto la stessa cosa. No, cioè, soltanto una questione di maleducazione, poi non, insomma, non ne facciamo una questione, eh? Di maleducazione reiterata nel suo caso. A me è sembrato sinceramente pentito, voglio sperare, l'intervistatrice è stata molto dura nei suoi confronti, lui è stato sinceramente credibile, almeno mi sembra, e vorrei che lo fosse, e come sempre sarebbe bello se tutto questo servisse di lezione, a maggior ragione in uno sport che sicuramente ha acquisito esasperazione che una volta non aveva, ma che è pur sempre lo sport del fair play. Oltretutto poi quello che dici in un campo di tennis non è come nel campo di calcio, dove puoi anche metterti le mani in bocca per non farti vedere dalle telecamere, ma quello che dici lì si sente terribilmente. Lui ha detto la cosa più orribile e inqualificabile nel momento più sbagliato che si può dire. Poi di Bad Boys, John McEnroe ce lo ricordiamo, però lui andava dall'arbitro, gliele cantava in faccia, al di là che fosse uomo donna, ma sempre con... senza mai perdere la tenerezza, come scrisse Sepulveda, eh? Su questo non ci giurerei, perché Sepulveda secondo me non capiva perfettamente l'inglese, però la cosa di Fognini è stata di una volgarità assolutamente indifendibile. Prendiamo per buono il suo pentimento, io ho qualche piccolissimo dubbio, però naturalmente è lui che ci deve dimostrare che come dire, un atleta sa essere anche civile e educato persino nello stress della sconfitta. Certo. Marino, ti ringrazio, maestro. Alla prossima. È sempre un piacere. Mio. Ci vediamo a Misano? Ci vediamo a Misano. Tu mi dici che trovi i biglietti, sì. Che dai, li trovo, dai, trovameli. L'hai detto pubblicamente, eh? sto facendo di tutto, ho buttato delle reti e vedrai che un pesciolino resta. Grazie Mario, ti abbraccio. Vale, che vada, chiamiamo il nostro amico Franco. Ma sì, 35 anni del suo mondiale, 35 anni del suo mondiale, ricordiamoglielo. Ciao Marino, ti abbraccio forte e lo faccio, lo farò di persona nel weekend. 800 24 00 24 numero verde traffico, poi nazionale Pardo e Gianni De Biasi. I love this game. Tutti convocati. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta convocati. Ipotesi della non qualificazione, perché la riterrei un'apocalisse, certamente che se dovesse verificarsi faremo tutti gli atti di tutela degli interessi federali. Al di là del termine che magari dovrebbe essere usato per altre cose, però quando è uscito il girone noi sapevamo che per la prima volta se ne qualificava una sola, e quando non sei testa di serie sei nel girone con la Spagna devi mettere in preventivo anche la possibilità di non passare direttamente, anzi direi che è quello che pensavano quasi tutti. Apocalypse, ne parlavo prima, no? Io condivido il pensiero del presidente federale, non andare ai mondiali sarebbe apocalittico, poi apocalittico è tanta roba, però siamo lì. Ciao Pardo! Bene, condividi? Apocalittico? Beh, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Chi parla male, pensa male, vive male. E boh, apocalittico è un po' forte come espressione. Sì, insomma, sarebbe una roba storica, non ci sono grandi dubbi. Ecco. Francamente. Siamo lì, siamo nell'ambito delle cose che due volte soltanto della storia l'Italia non ha fatto il mondiale, se non sbaglio, l'ultima volta comunque più di 50 anni fa, quindi insomma stiamo parlando di un'ipotesi quasi impensabile, quasi impensabile. Buongiorno Gianni De Biasi. Buongiorno a voi, ai radioascoltatori. Senta, da dove vuole partire lei? Dal modulo della nazionale, le lascio una facoltà di scelta, da noi italianucci che critichiamo Buffon, oppure da una Spagna che abbiamo fatto diventare bella e importante come una regina, con giocatori belli e importanti che tutti abbiamo detto marziani, l'ha detto Ventura, extraterrestri e inarrivabili. Io condivido modestamente quanto ha detto Raiola, Isco e compagnia cantante non sono così più impressionanti, più forti dei nostri. Sì e no, diciamo che dal punto di vista dell'esperienza internazionale forse ne hanno un po' di più, perché sono tutti giocatori che giocano in grandissimi club, anche i nostri ovviamente, però quello che saltava all'occhio era una differente, secondo me, velocità nel possesso palla, nel muoversi sul campo, la difficoltà tattica secondo me in mezzo al campo di De Rossi e Verratti contro i tre della Spagna, Coque, Busquets e Iniesta. Credo che un po' dal punto di vista tattico abbiamo sofferto contro una squadra che ha qualità tecnica, che sa tenere il possesso della palla, che ti fa correre spesso e volentieri a vuoto, e questo sicuramente in questo periodo dell'anno viene mal digerito da una squadra che magari per caratteristiche era votata più alla fase offensiva, mi riferisco agli esterni. Certo. Gianni, tu l'hai affrontata, la Spagna sulla panchina dell'Albania. Ha preso 2-0. 2-0 in casa, ok. Sì, sì. Quindi sai, parli con estrema cognizione di causa. Io e Pierluigi parliamo guardando da osservatori per il lavoro che facciamo, però sappiamo bene, abbiamo detto che insomma un centrocampo come quello contro la Spagna è improponibile. È improponibile, forse dal punto di vista tattico si poteva fare qualcosa di diverso per per cercare di tutelare anche i giocatori in campo e potevano magari essere difesi tra virgolette un po' meglio e quindi dare meno possibilità. Se non ti chiudi sull'esterno, tanto loro devono venire dentro per forza, perché cercano sempre questo possesso palla per poi venire dentro con l'imbucata, per venire dentro con questo passaggio filtrante. E quando hai giocatori davanti all'area, ne hai due soli, se ne hai magari uno in più, non guasta da un certo punto di vista, dal punto di vista tattico. Però parliamo del col senno di poi, con tutta una serie di bocce ferme. Pierluigi, cosa vuoi aggiungere? Cosa vuoi chiedere a Biasi? No, mi sembra. Beh, voglio chiedere se il 4-3-3, eventualmente, che è un modulo anche più simile per caratteristica a quello di Insigne, che è un giocatore importantissimo, credo siamo tutti d'accordo, nel gioco offensivo della nostra nazionale, poteva essere una soluzione migliore, dando maggiore equilibrio in mezzo al campo e forse rendendo un pochino più fluidi anche i movimenti lì davanti. Sì, in considerazione del fatto della qualità dell'avversario, perché credo che se giocano contro di noi possono giocare 4-2-4 senza problemi, se giocano contro Liechtenstein anche, se giocano contro Israele anche, contro la Macedonia anche. Anche se nella partita con la Macedonia, se ve l'andate a rivedere quella in Macedonia, l'Italia ha sofferto tantissimo dal punto di vista tattico e ha rimesso a posto una partita che stava perdendo, tra parentesi. Però il problema in fondo è quello di anche di una condizione psicofisica diversa. La sensazione era proprio che Carvajal, Jordi Alba sugli esterni spingessero tantissimo, che Koch in mezzo al campo fosse da tutte le parti e che Iniesta, nonostante la sua veneranda età, fosse uno che non parliamo poi grandi, di Isco, no? Di Asensio e di Silva non ne parliamo, ma è una squadra che ha indubbiamente grandissima qualità. Anche noi in taluni giocatori abbiamo qualità, probabilmente non abbiamo il dinamismo per sopperire a questo loro possesso palla. Sei contento? Ti piace la risposta? Passiamo al tiro al piccione, cioè al commissario tecnico. Dai. Io, guarda, da quel punto di vista lì direi che sono dalla parte di vettura, chiaramente. Sto solo sottolineando alcuni aspetti che potevano essere magari dopo la partita, che è facile giocare la partita dopo la partita. No, ma dicevo, tiro al commissario tecnico, che sappiamo bene lo sport nazionale, non inventiamo. Da tutte le parti, classico. Non preoccuparti. Un grande classico. Il problema è che, come dicevamo con Pierluigi, correggimi se sbaglio, le generalizzazioni dopo una partita sbagliata sono, secondo me, fuori luogo. Cioè, non puoi dire, va bene, sbagliato una partita contro la Spagna in maniera clamorosa, è tutto da buttare, tutto da riformare, un intero sistema, l'intero calcio italiano, poi torniamo a parlare di Vivai, tutte queste cose qui. A proposito di Apocalisse, no? No, io credo che, come sempre, la verità sta nel mezzo, però chiaramente il disfattismo imperante lo conosciamo. Io credo che da questa partita Ventura trarrà sicuramente insegnamenti importanti che gli serviranno per il futuro. Poi è chiaro che tutti ci auguriamo che la nazionale vada in Russia, che non abbia problemi sul cammino, che se anche dovesse arrivare seconda, stante la situazione attuale, incontri un playoff che sia abbordabile e che lo faccia da squadra importante quale noi siamo. Lo faremo a novembre, quindi da quel punto di vista lì sicuramente siamo al top della condizione, sì. Credo che quando c'è da stringere l'Italia c'è, perché contro la Spagna un anno fa abbiamo vinto noi 2-0 all'Europeo, non è che ha vinto la Spagna, abbiamo vinto noi 2-0. Scusate, ma c'è questo rischio secondo voi, Pierluigi e poi Gianni, c'è questo rischio? È una paura fondata il fatto che non si vada ai mondiali e che succeda l'apocalisse? Perché anche lì secondo me facciamo la tara. Nel 97 avevo 23 anni, ho dei vaghi ricordi, mi ricordo Italia e Inghilterra, stavo per lavorare in economia, non mi occupavo facevo già le telecamere per Telepiù, ma insomma voglio dire, comunque sì, un pochino lo seguivo, essenzialmente da tifoso della nazionale, e mi ricordo che prima di quell'Italia-Russia un po' di preoccupazione c'era, e superammo il turno, ma non è che abbiamo fatto 4-0 e 4-0, quindi è ovvio che qualsiasi spareggio, doppia partita, 180 minuti, non è semplicissimo, credo sia la portata, credo che abbiamo un 70% di possibilità, non lo so, adesso poi vediamo anche chi troveremo come avversaria. Un po' di preoccupazione che esiste, c'è. Vabbè, perché è l'imponderabile, è insita della doppia sfida nei 180 minuti, che ovviamente sono un lasso di tempo non così grande per far valere una superiorità tecnica che penso che l'Italia comunque abbia, quindi questa è la mia sensazione. Poi adesso da qui a affacciarci troppo la testa, secondo me è sbagliato. Gianni? Ma dipende sempre dall'avversario che andremo ad affrontare, dipende dalle famose urne, cosa salta fuori. Ti salta fuori un'Islanda, dico per dire il nome che mi viene in mente, che è stata la rivelazione dell'Euro, una partita difficile da questo punto di vista qui, anche se noi dal punto di vista tecnico siamo superiori, ma è proprio questo che potrebbe essere il minus valore in questo momento, perché chi ha il favore del pronostico può essere quello che ha il peso superiore da portare. Gianni, ti ringrazio, buon lavoro, grazie a presto. Ciao. E Pierluigi, prima della borsa, poi apriamo i microfoni degli ascoltatori, anzi prima andremo a sbirciare, a vedere come a fare l'ufficio faccia nel ritiro della nazionale con un caro amico di Sky. La partita di stasera, corriamo qualche rischio, qualche pericolo? Il pericolo secondo me è che la sconfitta dell'altro giorno non è stata una sconfitta normale, è stata una sconfitta pesante dal punto di vista dell'importanza della partita, dal punto di vista psicologico, delle polemiche, quindi corriamo qualche rischio da questo punto di vista. Bisognerà partire forte, bisognerà cancellare subito affanni e problemi. Io voglio pensare che non ci saranno problemi, però indubbiamente è una partita che arriva dopo per cui bisogna dare comunque un segno di forza, quindi qualche rischio in più c'è, certo. Bisogna dare un segno di forza nella partita di stasera, non abbassare lo sguardo e cancellare magari anche fin dall'inizio, magari anche fin da subito, quella sensazione, quella mano che ci portiamo addosso. Ascolta, Emilio lo facciamo subito, lo sentiamo, vai, subito, vai. Emilio della provincia di Como, 800240024, domenico dopo la borsa. Emilio, dica. Sì, buongiorno. Secondo me in qualche occasione, magari dal punto di vista giornalistico, bisogna, come succede magari per qualche conflitto, capire e arrivare magari alle radici del problema, cioè nazionale. Noi fino al 2014 abbiamo avuto, mi sembra, Arrigo Sacchi come responsabile del settore giovanile. E Arrigo Sacchi, secondo voi, non conta ancora moltissimo comunque nazionale per il presidente della federazione, eccetera? Quello che voglio arrivare a dire io, la scuola del calcio italiano, d'accordo, ma senza scomodare il povero Nereo, ma più avanti era rappresentata da quello che era il fulcro in difesa e in mediana. Mi faccia capire, ecco, cioè lei dice che questa nazionale è imbastardita dal sacchismo, è figlia di eccessi dal punto di vista di scelte tattiche, di zona a tutti i costi. Non lo so. Ricorda la partita che ha fatto, per esempio, un altro zonaiolo convinto come Sarri, riuscendo a prendere due gol? Guardi, non saprei. Fermo. Se lei mi dice che non dobbiamo rinunciare al nostro DNA, io sono d'accordo, lo dicevamo anche ieri con Giuseppe Carucciani, cioè vai lì, corri, combatti, il DNA che era illustrato da Antonio Conte, però se lei mi dice che questa, che dobbiamo tornare a fare catenaccio contropiede, non saprei. Traffico. No, borsa. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Beh, sai, Pierluigi Pardo, come puoi ben immaginare, sono tanti gli ascoltatori che hanno voglia di intervenire sul fondo azzurro, quindi tema caldo, quindi Marco da Treviso, Domenico, Manuel, poi altri, e poi faremo salto a Coverciano proprio appunto a fare l'ufficio faccio della nazionale. Marco? Pronto, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Volevo intervenire spezzando una lancia a favore di Giampiero Ventura, visto che è stato oggetto di pesanti critiche, insomma, dopo la gara con la Spagna. Semplicemente io penso che sia indecente forse attaccare così tanto il CD per una partita, sì, secondo me programmata da un punto di vista tattico completamente in modo errato, però qualcuno forse dimentica che lui ha un onere non da poco, ovvero ha in mano il ricambio generazionale della nazionale italiana, cosa che forse doveva avvenire già 2 anni fa con Antonio Conte. Invece è stata una cosa forse fatta a metà al tempo, quindi penso anche sia uno dei pochi allenatori che abbia sempre avuto un'idea coerente di calcio, un'idea che ha sempre portato avanti. Io me lo ricordavo fino ai tempi del Bari. Sì. E quindi essenzialmente questo, insomma, penso che comunque sia giusto perseverare su questa strada qui e che gli venga dato anche tempo, perché ripeto, ha un onere. Certo, ma certo, lo sappiamo. No, ma sicuramente dopo una grande manifestazione, anche per ragioni anagrafiche, c'era bisogno di fare questo ricambio e si è scelta la strada Ventura, che porterà, speriamo tutti, dei successi. Però per Luigi Pardo sa perfettamente come Ventura sia un uomo di campo. Non so se in nazionale sia esattamente quello che serve, un po', ma anche questa è una macro domanda a cui troveremo una risposta, Piero. Sì, ma no, è vero quello dice l'ascoltatore, cioè Ventura è un allenatore, ma l'abbiamo detto mille volte, che crede nel gioco, che ha fatto delle cose anche interessanti, non è un vincente in senso stretto del termine, ma anche perché non ha avuto nella sua carriera praticamente quasi mai la possibilità, forse mai la possibilità di avere una squadra da scudetto o cose del genere. Quindi stiamo parlando di successi ovviamente parziali, come può essere una salvezza col Bari o una buona stagione col Torino o l'approdo in Europa col Torino. Quindi stiamo parlando di un buon allenatore, abbiamo detto mille volte, sicuramente di esperienza e sicuramente con una filosofia di chi crede nel gioco, questo sì, non c'è dubbio. Però stavolta non ha funzionato. Mi verrebbe a dire con una battuta che forse, come diceva Cruciani ieri, era meglio non credere troppo nel gioco. Cioè, no, ma questa è una battuta che è quello, no? Guarda, io continuo a pensare che in nazionale, ma al di là di Ventura, delle sue specificità, continuo a pensare che in nazionale serva più un capopopolo. Marcello Lippi, Antonio Conte, cioè non c'è da fare capopopolo. Io penso che come ha giocato Conte contro la Spagna in Francia è un capolavoro tattico, al di là del capopopolo. Poi sai un certo tipo di standing, un certo tipo di personalità e di percezione da parte dei tifosi te la fai anche con le vittorie. Ventura certamente rispetto ad Antonio Conte partiva con meno, comunque con un'immagine diversa di uno spessore un pochino inferiore, perché Conte è un top e Ventura invece è un buon allenatore, questo dice la storia del calcio ad oggi. È chiaro che questa è l'esperienza io la cosa che non ho capito sinceramente è stato il rinnovo, perché comunque sia mi è sembrata una scelta un po' prematura, sì, quando la qualificazione al mondiale doveva ancora essere conquistata. Sì. E questa è la cosa che non ho capito. Sulla scelta, è stata una scelta secondo me che ci poteva stare. La verità è che il capolavoro non è che l'ha fatto 2 anni fa, 3 anni fa, insomma, quando prese Conte, mi ricordo quell'estate che ne parlavamo anche a tutti i convocati, probabilmente spinto anche dalle sue gaffe che avevano creato. C'era bisogno di una mossa anche populista, se esatto, vuoi, in quel esatto, momento. È un grande allenatore. E oggi, insomma, i grandi allenatori sono rari sulle panchine delle nazionali, soprattutto nei club, quindi non è neanche facile portarli. No, chiaro. Domenico, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Dunque, io volevo intervenire perché non capisco questo eccessivo accanimento contro Buffon, che credo che sia un giocatore che non abbia nulla da dimostrare. Ha vinto un campionato del mondo facendo la differenza con ben altra squadra, ovviamente. E invece credo che magari alcune delle ragioni siano da ricercare. Non dico nella mancanza di talento, perché sicuramente la nazionale anche adesso ha dei giocatori talentuosi, ma ha dei giocatori che tutto sommato, perlomeno gran parte di loro, non hanno ancora dimostrato niente, nel senso che non è che poi facciano questa grandissima differenza. Insomma, in campo internazionale squadre. Domenico, sì, però a cui non hanno dimostrato niente. C'è qualche campione del mondo che è senatore, c'è qualche giocatore che ha giocato un paio di finali di Champions League così negli ultimi 3 anni, ce ne sono altri che, Verratti per inciso, giocano titolari in Champions League in una grande squadra ormai da tempo, quindi non è che sono esattamente dei pirelli presi per strada dalla Serie B, No, quello sicuramente è chiaro, però voglio dire, non è che Verratti abbia fatto la differenza, per esempio, in Champions League tale da far vincere la Champions, è vero, io ribadisco, noi non siamo, probabilmente ci siamo un po' illusi, no? Di potercela, o qualcuno perlomeno si era illuso di potercela giocare alla pari con la Spagna. È chiaro che non siamo di quel livello lì, non siamo nemmeno la peggiore nazionale al mondo, non siamo nemmeno una nazionale che per il suo valore tecnico in automatico debba fare una figura come quella che ha fatto l'altro giorno. Cioè l'altro giorno è stata una prestazione al di sotto, completamente al di sotto del potenziale della nostra squadra, questo non ci sono dubbi. Poi che in certi momenti si possa aver esagerato dal punto di vista dell'ottimismo, questo ci sta come ragionamento, insomma, che Verratti ancora debba, per esempio, e parlo di un talento, di uno che stimo tantissimo, debba ancora crescere per avere una dimensione internazionale di un certo tipo, questo è evidente, no? Ma come lo stesso Paris Saint Germain deve ancora fare tutto, no? A livello europeo. Allora, Manuel, provincia di Modena, poi traffico, dica. Buongiorno, volevo parlare di numeri io, numeri semplici. Cioè, noi col 3-5-2 contro la Spagna ci abbiamo giocato una volta con Prandelli, con De Rossi davanti alla difesa, e ci abbiamo pareggiato 1-1. Abbiamo perso una finale con un 4-3-3, poi ci abbiamo giocato con Conte col 3-5-2, ci abbiamo vinto, e ci abbiamo giocato col Ventura col 4-2-4 e abbiamo preso anche lì delle batoste. Secondo me è bene giocare, è bene fare il passo lungo come la gamba. Cioè, se gioco con una squadra abbastanza importante, magari mi copro di più che ne essere spregiudicato. E i numeri con la Spagna negli ultimi 5 anni penso che parlino chiaro. Penso, D'accordissimo, anche se sono 4 partite diverse, quindi secondo me non è soltanto un fatto di numeri. Il 4-0, lo ricordavamo anche ieri, di Kiev, fu in qualche modo frutto della stanchezza incredibile della nostra squadra, che aveva giocato il giovedì a Varsavia, tornò a Cracovia nella notte, seguivo quella spedizione, mi ricordo benissimo, insomma, fu veramente abbastanza un delirio, e francamente giocare una finale 3 giorni dopo una semifinale così complicata come quella con la Germania fu pesantissimo. Però è vero, cioè, è vero il concetto, è vero la filosofia. Sofia, è vero che nella vita, come diciamo a Roma, delle volte sei martello, delle volte sei incudine, a volte devi dominare, altre volte sai che invece sei inferiore, allora devi aspettare e ripartire. Questa è la sostanza. Da questo punto di vista, e il discorso in qualche modo si lega al modulo, sono d'accordo. Cioè, le volte in cui abbiamo affrontato la Spagna da underdogs, impauriti e consapevoli dei nostri limiti per giocare sulle debolezze dell'avversario, abbiamo fatto buone partite. Quando abbiamo provato quando ci siamo illusi che potevamo giocare alla pari, abbiamo preso certo. Allora, traffico, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Convocati. Devo dire che le critiche vanno accettate come l'alternarsi delle stagioni, cioè sono inevitabili e va bene così, nel senso che realmente non provo né disappunto né rancore né niente. L'unica cosa che devo fare è rispondere sul campo, no? Perché poi realmente se uno mi dice ti sei sentito ferito, come fai a sentirti ferito? Ti senti ferito se secondo me ci sono delle, come diceva il mister, delle critiche secondo me reali e costruttive. Se si fa il tiro al piccione, di che cosa mi devo sentire ferito? Mi puoi prendere, va bene, uguale, ma non. Cioè non è che intacchi quello che sono e quello che voglio continuare ad essere. Insomma, l'ha presa con estrema nonchalance, Gigi Buffon ci aveva dato un distacco. Però questo punto qui, tre punto giri qui di distacco, Pier. Tre giri. Oh, ok, sono qui. No, questo punto qui è molto interessante. Credete? Sì. Molto interessante, riguarda la vita di tutti noi. Perché se una critica poi si sbaglia, ovviamente nella vita tutti sbagliamo. E l'altro giorno Buffon, sicuramente lo sa lui per primo, non ha fatto la migliore partita della sua carriera. Però il discorso che fa è giusto. Il discorso che fa è quello che se poi uno per 20 anni veste questa maglia, sta benissimo che ci possono essere dei picchi o dei cali di rendimento, però ha la coscienza a posto, ha lavorato bene, sa benissimo che le critiche fanno parte del gioco, ma che finisce lì. Appunto, sai che Buffon vive di questo rapporto con con il fatto che poi ci sono i detrattori, no? Cioè, gli ultimi anni della sua carriera sono stati una continua rincorsa verso, certo, ma appunto, la longevità, no? Pier, è così abituato che mi ha fatto sorridere mentre lo sentivo. È talmente abituato da prendere un distacco chilometrico. Ok, io sono qui, non, tanto non mi fate niente, l'avete fatto mille volte, ormai me ne frego. Vi rispondo lì, alla mia età, come vi ho risposto lì per tutta la carriera. Vincenzo, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Ascolta, io volevo... Io ascolto bene questa trasmissione, è molto, molto carina. Sono contento di ascoltarvi. Ma riguardo Ventura, secondo me, quello lì, io prima ho detto che è un allenatore da quattro soldi, però se noi ragioniamo... Nessuno, 4-4-2, nessuno ha detto che è un allenatore da quattro soldi, eh? Ah, ma no, ho detto io, dico io, okay. Mi assumo responsabilità. Ok. Magari vivo un bicchiere di voi. Okay. Ma niente, no, volevo dire che insomma è il centro della squadra. Tutte le volte che andiamo all'estero, ragazzi, prendiamo le patate. Vabbè, non generalizziamo sui quattro soldi e i quattro denari. Da quanto tempo non perdevamo una partita di qualificazione europea in mondiale? Non scherziamo, adesso non scherziamo, veramente siamo un paese di pazzi. Abbiamo perso una partita, abbiamo perso male, malissimo. Siamo è una delusione enorme. Dal punto di vista pratico era molto difficile immaginare una vittoria in Spagna, quindi cambia poco. Dobbiamo imparare dagli errori, il CT deve imparare dagli errori, ha ragione quando dice che non è che il cammino fino ad oggi sia stato catastrofico, il cammino fino ad oggi è un cammino discreto, può ancora, ed è ancora la soluzione più probabile, qualificarsi per il mondiale. L'importante ovviamente è imparare dagli errori, questo è il vero tema. Certo, certo. Tutti devono imparare dagli errori, i giocatori importanti che abbiamo devono imparare dalla partita che hanno fatto. Ventura come l'ha tracciata deve fare mia colpa e si avanti. Non è che adesso no, ma chiaro. Allora, sentiamo anche un altro estratto della vigilia proprio di quello che è stato orora definito allenatore da quattro soldi. Non vorrei togliere enfasi o meno, io credo che sia un numero importante per la nazionale italiana, credo che sia un desiderio di Insigne, so che era di Verratti, mi sembra, no? Che aveva prima Verratti, credo, ma tutto un beneficio di mente, perché non vorrei dire delle sciocchezze, credo che Insigne gli abbia chiesto di farmi fare una partita col 10 per altri. Confermo. Così, cioè, però ripeto, sono quelle cose che io entro poco in queste cose, quindi così è nata. Mamma mia, quanta letteratura, facciamo tutto 10 neanche in Brasile o in Argentina, Pier. No, la cosa del 10 è assurda. Per due motivi. Letteratura pura, dai. No, per due motivi. Primo, perché il numero 10 è un numero, e quindi o si decide che lo si ritira. Perché sì. Per rispetto nei confronti di Rivera, Baggio, Del Piero, Totti, no? Okay. Si decide che non si gioca col 10 perché non c'è nessuno degno. Invece in Argentina o in Brasile, lasciamolo lì. È una follia. E poi perché, onestamente, se sei un giocatore della nazionale che per talento, prospettiva e caratteristiche legate a quel ruolo può vestire quella maglia, quel signore è Lorenzo Insigne. Cioè, voglio dire, io trovo paradossale, surreale, mi ricordo che difesi, anche se non ce n'aveva bisogno, Thiago Motta per il discorso legato agli europei, no? Perché magari per caratteristiche Thiago Motta non è un 10. Insigne, in questa nazionale qui è un 10, ma normale. Ma normale, ma poi se uno si sente di vestirla quella maglia lì, cosa facciamo? Gliela togliamo in nome di che cosa? Anzi, tutti i giocatori della apprezzo. Squadra della nazionale con la maglia numero 10 addosso hanno sempre fatto una grande. Bravissimo, esatto. Ma scusa, se uno vuole quella maglia ed è così cazzuto da vuole quella maglia da indossarla e da portarla in partita alla faccia delle critiche di queste sciocchezze, ma allora lo rispetto ancora di più. Lorenzo Insigne, che è uno dei migliori giocatori che abbiamo. Andrea? Sì, buongiorno. Buongiorno Dica, siamo quasi in chiusura. Allora faccio il notaio, tre minuti. Sì, volevo replicare a quelli che hanno detto Italia spregiudicata. Il primo tempo noi abbiamo preso due gol su due tiri in porta, di cui uno una punizione e l'altro tiro dal limite con la difesa schierata. Quindi non sono molto d'accordo sul fatto che era una squadra spregiudicata. Dopo il secondo tempo, dopo ormai la partita era persa, però il primo tempo Buffon non ha fatto una parata, non ha fatto gol su calcio piazzato, Sì, e Andrea, sul tiro però, dal limite è quella di fine schierata. Vabbè, ma anche lì stiamo a guardare gli episodi, dicevo ieri, il dito e la luna. La verità è che ci hanno messi nell'angolo dal primo istante, dal pronti via, e da quell'angolo non siamo mai usciti. Poi che si pigli gol su punizione, su rimpallo, dal limite, non dal limite, era evidente, no, che la Spagna in un modo o nell'altro avrebbe fatto gol. Almeno a me, io ho avuto questa impressione prima. Sì, sfurguliamo gli episodi. Non c'è altro da aggiungere, poi è ovvio che gli episodi della partita contano. Non sono stati gol episodici, cioè non è stata una roba che tu partita equilibrata e prendi gol. L'unico piccolo rimpianto, che ovviamente non cambia la sostanza di una partita sbagliata, sono stati quei 7-8 minuti buoni che abbiamo avuto con la palla gol di Belotti, e lì forse se avessimo fatto gol lì avremmo 1-0, la partita poteva provare a girare. Quello sì sarebbe stato un episodio. Questo è l'unico piccolo rimpianto che abbiamo, ma voglio dire, è un rimpianto che lascia veramente il tempo che trova, soprattutto perché c'è il portiere, c'è l'attaccante che ha colpito, è stato bravo il portiere. Cioè, francamente, se sei, a me già i rimpianti piacciono poco. Avesse fatto quel gol Belotti, quello sì che sarebbe stato un episodio, perché sarebbe stato un lampo nel buio, e il buio era la nazionale italiana, mentre quella spagnola stava giocando. Pierluigi, siamo in chiusura, sai? Domani, ti abbraccio. Sì, domani torniamo, ti abbraccio fortissimo anch'io. Torniamo domani, ringrazio Giorgio Duca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati, come sempre, in diretta, domani alle 14. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!